Steve a mis au point différents réservoirs. E ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornate, bentornati alla finestra sul cortile. Siamo ormai prossimi al 25 aprile, festa della liberazione, un'ottima occasione per parlare di libertà e di nemici della libertà che sono ancora così numerosi nel mondo e di come si può lottare contro di essi. Le nuove tecnologie, internet, Facebook, i blog, YouTube, sono delle armi efficaci per rovesciare i regimi autoritari e affermare le libertà democratiche? O possono a loro volta essere strumentalizzati dai tiranni al potere contro i cittadini che chiedono maggiori libertà? Di questi e di altri temi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto sentiamo che cosa prevede il menù di oggi. Stati Uniti. Saranno Facebook e YouTube le nuove armi contro il totalitarismo? Non tutti pensano che Internet giochi a favore della democrazia. Kashmir. I manifestanti tirano le pietre, ma il profeta sarebbe d'accordo? Nel paese si discute sulla compatibilità di questa forma di protesta coi principi islamici. Francia. Skirt Day. Un giorno dedicato alla gonna per rivendicare l'orgoglio di essere donna. Nepal, sacerdozio alle donne? Tra i buddhisti del Nepal è già realtà. Inghilterra, guerriglia gardening, l'ultima frontiera della lotta ecologica per l'abbellimento delle città. Francia, basta con la crisi. I media ripetono questa parola da mesi, a furia di parlarne la si alimenta. Si è parlato molto in questi anni, si è discusso accanitamente di esportazione della democrazia, soprattutto nei paesi islamici, nei paesi dove la democrazia liberale non esiste o dove esistono dei regimi tirannici, e l'esportazione avveniva nelle intenzioni di chi la proponeva, soprattutto con la forza degli eserciti. Ma c'è anche un'altra scuola di pensiero che sostiene che la democrazia si esporta meglio con delle armi più sofisticate e meno pericolose, e cioè attraverso internet, attraverso la rete, attraverso le nuove tecnologie di comunicazione. Proprio di questo tema si occupa un articolo della Boston Review firmato da Evgeny Morozov, un politologo russo che fa parte dell'associazione fondata dal miliardario Soros, Società Aperta. E in questo articolo esprime alcuni dubbi circa, diciamo, l'ottimismo, quello che lui chiama cyber optimism, sulla possibilità di usare questi nuovi strumenti, in particolare i blog, Facebook, YouTube, tutte queste forme di social network sulla rete per creare, diciamo, la democrazia laddove ancora non esiste. Cita Morozov alcune affermazioni del passato di presidenti americani come Ronald Reagan, che nell'89 diceva: il Golia del totalitarismo sarà abbattuto dal David del microchip. Più tardi Bill Clinton disse che censurare internet era come cercare di inchiodare al muro della gelatina, e George W. Bush nel 99 disse: immaginate se internet prendesse piede in Cina e vedreste come la libertà si diffonderebbe a macchia d'olio. Ma secondo dei rapporti di istituti specializzati come il Carnegie Endowment for International Peace, Open Networks, Closed Regimes, The Impact of the Internet on Authoritarian Rule, in realtà l'avvento di queste nuove tecnologie è a doppio taglio, perché può anche, oltre essere uno strumento di espressione per i cittadini, per i dissenzienti, anche invece uno strumento a disposizione del potere. È vero che appunto i blog, i video e lo scambio di foto, soprattutto la diffusione di foto relative a repressioni poliziesche o repressioni di moti popolari, sono mal viste dai regimi e fortemente represse, ma è anche vero che in questo momento in molte realtà come la Cina sono gli stessi partiti al potere ad assoldare dei commentatori online per fare propaganda al regime, e in Russia ci sono delle compagnie private di internet che diffondono delle idee, delle opinioni a favore di Putin, per esempio una versione della guerra in Georgia che addossa tutta la colpa alle autorità georgiane. E quindi scrive Morozov: attenzione, perché è vero che molte delle rivoluzioni diciamo così di velluto, delle rivoluzioni non cruente a cui abbiamo assistito in questi ultimi anni, come quella dell'Ucraina, ma anche per esempio la protesta in Colombia contro la guerriglia, o la protesta invece, quella sì, repressa in maniera sanguinosa in Birmania nel 2007, fu guidata proprio dai blogger locali o dall'uso dei cellulari, e anche gli attivisti democratici in Zimbabwe contro Mugabe usano queste tecnologie. Però finora nessun dittatore è stato tirato giù con Second Life. E poi aggiunge, attenzione a vedere che i blog che i corrispondenti occidentali seguono di più sono quelli scritti in inglese, ma bisognerebbe andare a vedere i blogger iraniani che invece scrivono nella loro lingua, oppure i blogger arabi, e vedere se per caso in realtà questi non remano contro la democrazia e la modernizzazione. Quindi, se non usano le armi, diciamo, della tecnologia occidentale, proprio in senso contrario a quello che noi auspicheremmo. Ecco, ma intanto ci ha raggiunto al telefono il nostro ospite, che salutiamo, Lucio Caracciolo, benvenuto. Grazie a voi. Lucio Caracciolo è direttore di Limes, voi tutti lo conoscete, un esperto di politica internazionale, di geopolitica. Ecco, come giudica, diciamo, l'uso di queste tecnologie, di internet, insomma, a favore dei diritti civili e contro i regimi autoritari? Credo che la questione che pone Morozov sia tipicamente una questione mal posta, nel senso che non credo che sia esportabile la democrazia. Penso che la democrazia nasca e si diffonda all'interno di determinati ambiti culturali e nazionali, almeno così è avvenuto storicamente, e non possa essere esportata. Quelle che si chiamano esportazioni di democrazia in realtà sono conquiste che poi spesso terminano, diciamo, in modi non esattamente previsti. L'ultimo tentativo, per esempio, è stato quello americano in Iraq, che non mi pare abbia prodotto Westminster a Baghdad. In genere io penso che immaginare che uno strumento possa affermare un'ideologia, specialmente strumenti di informazione e di discussione di massa come internet, sia utopico. È come dire la radio o la televisione fanno la democrazia, dipende chi li usa e per quali scopi. Ma per esempio lo si era detto nel caso dei paesi dell'est, della Germania est, però in questo articolo si fa notare che pare i tedeschi dell'est più attivi nella protesta erano proprio quelli che non guardavano la televisione occidentale. Il migliore strumento di propaganda per l'Occidente era la televisione della DDR, cioè quel tipo di informazione palesemente deviata dal potere, che è talmente visibilmente falsa da provocare una reazione, molto più che gli imbonimenti che possono arrivare da paesi democratici. Ecco, è vero comunque che, per esempio, il blog è uno strumento molto individuale, insomma, al contrario della stampa. È spesso semplicemente uno sfogo di un ego, è un'opinione molto privata. Assolutamente sì, questa è la caratteristica specifica di internet, anche se ormai gli interventi o i tentativi di intervento statali su internet non si contano più, è diventato anche in qualche modo un terreno di guerra virtuale fra paesi o opinioni o interessi diversi. In ogni caso la democrazia non significa semplicemente esprimere la propria opinione, ma costruire istituzioni comuni e condivise. Noi ringraziamo Lucio Caracciolo, a presto. Grazie a voi. E sempre a proposito di protesta e di forme di lotta, ci spostiamo in Kashmir. Sulle colonne di Outlook India leggiamo che un grande dibattito è in corso in questo paese a proposito dell'uso delle pietre durante le manifestazioni di piazza. E la domanda che si fanno soprattutto i teorici capi dell'Islam è se questo sia conforme all'insegnamento del profeta, e normalmente la tesi prevalente è che il profeta avesse vietato il lancio di pietre, sostenendo che non sono né un gioco e neppure un'arma per uccidere i nemici, ma solo una maniera di rompere i denti o di fracassare gli occhi a qualcuno. Certo, questo uso delle pietre da parte dei separatisti del Kashmir fa parlare addirittura di una forma di intifada separatista in questo paese, molto simile a quella che abbiamo visto all'opera nella striscia di Gaza. Ma a parte gli scontri di piazza dovuti a motivazioni politiche o separatiste, lapidare le adultere o le donne che portano i pantaloni è conforme all'etica islamica? Dalle pietre ai fiori, una forma di guerriglia molto meno pericolosa è quella praticata da alcuni gruppi ambientalisti in Inghilterra, e ne parla sul Telegraph Louis Gray. Dice che ci sono gruppi sempre più attivi a Londra, soprattutto nelle periferie più degradate, che vanno in giro in stivaloni e tute sgargianti facendo del giardinaggio abusivo, cioè piantando bulbi e fiori nelle aiuole, negli spartitraffici più devastati della periferia. Insomma, se siete arrabbiati per l'ambiente, per la bruttezza della vostra città, per il traffico e per l'inquinamento, ditelo con i fiori. Forse sarebbe bello che anche Al-Qaeda, invece dei kamikaze, cominciasse a impiegare dei giardinieri. La finestra sul cortile. Donne con le gonne era il titolo di un film di anni fa di Francesco Nuti, a indicare il fatto che ormai le donne d'oggi, le donne emancipate, le donne moderne, portano spesso i pantaloni e la gonna, insomma, ha perso un po' quella caratteristica distintiva del sesso femminile che ha avuto per tanti secoli. Ma in Francia, dove soprattutto nelle giovani generazioni, come del resto anche da noi, la gonna sta perdendo quota a favore dei jeans, magari dei jeans a vita bassa, e c'è un'iniziativa che ormai interessa molti istituti scolastici, di celebrare addirittura una giornata della gonna, la Journée de la Jupe. C'è un articolo della Revue des Idées, una rivista appunto di dibattito online, di Christine Barr, che parla proprio un po' di quali sono i temi al centro di questa giornata, e parte un po' da lontano, proprio dalla storia della gonna, dal fatto che è sempre stata il dato caratteristico del genere femminile come genere specifico, in contrapposto a quello che porta i pantaloni, un genere carino ma non molto intelligente, ironizza Christine Barr, e cita una battuta molto infelice di Monsignor André XXIII, arcivescovo di Parigi, che a Radio Notre Dame qualche mese fa, a proposito delle possibilità di ordinare sacerdoti delle donne e comunque di impiegare le donne nella celebrazione dei riti, dice: beh, la cosa più difficile è avere delle donne che siano formate. Dice: il fatto, l'essenziale non è di avere una gonna, ma di avere qualcosa nella testa. Quindi da un lato c'è questa uguaglianza tra gonna e scarsa intelligenza, dall'altro l'altra c'è jupe égale put, cioè la gonna legata insomma a una certa facilità di costumi. E dice la Christine Barr che tra i giovani la considerano quasi un tabù. C'è una sorta di puritanesimo di ritorno, un puritanesimo collegato poi invece ad un abuso del porno attraverso internet, eccetera, che finisce proprio per così bocciare la gonna come espressione proprio di libertà femminile. Ecco, è proprio questa la domanda. La gonna è uno strumento di emancipazione oppure è una veste tradizionale della donna che la relega ad un ruolo specifico e subordinato? Ecco, giriamo la domanda alla nostra ospite che abbiamo al telefono e che salutiamo, Lella Costa. Benvenuta alla Finestra sul Cortile. Eccoci, ben trovati. Ma posso iniziare con un lieve disorientamento spazio-temporale? Mi verrebbe da citare Lucio Battisti e da chiedermi che anno è, che giorno è. Mi sembra tutto così già visto, già sentito e anche, devo dire, con tutto il rispetto, ma anche un filo pretestuoso. Sì. Perché poi la vita va diversa, va diversamente. Mi sembra che ci sia... Allora, se è sotto gli occhi di tutti, poi chi ha figlie, adolescenti e non solo, si rende conto che la scelta del pantalone, ma è più comoda perché poi ti dà questa cosa di uniformità, no? Per cui evita di sottolineare delle differenze, anche perché credo davvero che... nelle relazioni tra i due sessi o genere che dir si voglia, fino a una certa età almeno, ci sia questa sorta di scambi, si scambiano le felpe, si scambiano i jeans, i maschi portano questi ignobili jeans che non sì, definire terribili. Vita bassa è un eufemismo, cioè gli cadono sotto, a me è capitato con un cavallo praticamente al ginocchio, no? Sì. Al ginocchio, di perdita di indumento per il ragazzo davanti a me sulle scale della metropolitana che gli casca il pantalone, quindi delle robe assolutamente forse un po' ridicole, forse sì, un po' estreme, goffe, ma diciamo, assolutamente, come dire, di una scelta di come rappresentare se stessi, che mi viene in mente Amleto che risponde alla madre che gli dice basta vestirsi di nero, in fondo è una legge, no, Amleto che continua a vestirsi di nero per il lutto per la morte del padre, è una legge di tutti, insomma, chi vive deve morire, perché a te sembra una cosa così particolare, e lui risponde sembra, niente affatto, è, io non conosco sembra, no? Cioè, certo. L'attaccarsi, sostenere che come ci si veste è un'espressione del sé più profondo, non è così o è parzialmente così o è un vissuto generazionale, va tutto bene. Mi sembra che poi non sia, imporre la giornata della jupe mi sembra una roba francese, cioè sono sì, un po', ecco, diciamo un po' giacobina se vogliamo, però, esatto, però ecco, alla base c'è un'osservazione, mi sembra di irresistibile sì. Comicità il vescovo che si citava poc'anzi, dato che tradizionalmente loro sempre le sottane hanno avuto, dire che esatto. Sotto il vestito niente, come dire, gliela rimpalli immediatamente, è un autogol clamoroso. Ecco, però se vogliamo, al di là appunto degli aspetti un po' grotteschi, se vogliamo, e velleitari di questa iniziativa, c'è un dato di fondo, che è un dato storico, che potremmo comparare, insomma, la situazione attuale, quella degli anni 60, quando la divisa della liberazione sessuale, la divisa delle ragazze emancipate ribelli era la minigonna, esatto, quindi era quanto di più, quanto di più diverso dal ruolo maschile, le famose gonnellone a fiore, certo, quindi sì. Forse sarebbe più importante concentrarsi su, come dire, sulla percezione del corpo femminile, sull'utilizzo del corpo femminile, perché che l'equivalenza oggi possa essere la gonna indipendentemente, quindi immagino dalla sua lunghezza, ragazza facile, ragazza leggera, più appunto, beh insomma non lo so, anche perché vediamo appunto jeans a vita bassa, pantaloni super attellati, delle robe che certo. Non è quello, ecco, non è quello. Mi sembra che questa sia un po' una semplificazione. Allora, se vogliamo fare una giornata in cui tutte le ragazze sono incoraggiate, poi secondo me è anche un po' limitante questa cosa. Io per esempio personalmente detesto le gonne, ma non adoro i vestiti. Trovo che le gonne siano sempre molto difficili da abbinare, ti creano problemi. In questo senso il pantalone è meglio. Se no gli abiti, che sono una scelta come dire di interezza, di immagine di sé, di semplicità, anche con un abito certo. Non hai problemi del sopra e del sotto, sei vestito come ci insegnano appunto i preti che la sanno lunga e da prima di noi da millenni. Ringraziamo Lella Costa e a presto. Grazie, a presto. E restiamo in tema di donne, ma ci spostiamo a Kathmandu in Nepal, dove un guru buddista, Gyalwang Drukpa, discendente di una antica dinastia di 800 anni di buddismo tibetano, ha deciso di aprire alle donne in una area, in un culto che è sempre stato tradizionalmente dominato dai maschi. La prima donna che si è stata nominata sua santità venerabile per i suoi progressi spirituali è Tenzin Palmo, una monaca buddista nata a Londra e che ha studiato per molti anni in India. Il buddismo cerca di reagire ad una millenaria cultura maschilista aprendosi alla presenza di spiritualità femminili. Forse bisognerebbe spiegarlo alla Curia Romana e a Sua Santità Benedetto XVI. Ci spostiamo in Francia, sulle colonne della rivista Les Inrecuptibles ci si domanda se la crisi sia un'invenzione dei media o un dato reale, o se comunque a forza di parlarne non si finisce per aggravarla. Questa è l'accusa che per esempio ha mosso Alain Menck, ha detto la crisi è un fenomeno grottescamente psicologico e ne ha addossato la colpa ai mass media che avrebbero precipitato la Francia, ma non solo la Francia, in una specie di psicosi collettiva, di isteria, di panico, di massa. E qualcun altro gli ha obiettato che durante gli attacchi al World Trade Center a New York la gente scendeva le scale molto lentamente, se invece si fossero precipitati in preda al panico probabilmente ci sarebbero state meno vittime. Certo, se fosse vero quanto sostiene Alain Menck, basterebbe un po' di Prozac per sconfiggere corvacci e disfattisti. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Filippo Aureggi in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.